Ed ecco la seconda parte dell'intervista ai lavoratori della CKN Campi Bisenzio effettuata nella redazione di Radio Wombat. Ricordiamo passaggi a nord-ovest tutti i lunedì alle 13.30, in replica dal martedì al venerdì sempre alle 13.30. E ritorniamo alla nostra intervista. Stavamo parlando, comunque stiamo entrando nell'argomento che riguardava l'iniziativa all'interno dell'azienda per il proprio contratto, per una sorta di norme, di regolamenti di contratto proprio a livello di base, a livello di CKN. Ecco, cosa ci potete dire a questo proposito? Come si è articolata l'iniziativa? E rispetto a che cosa? Ecco, prima di aggiungere qualcosa a questo, volevo dire una cosa che riguarda anche, si è parlato prima di interinali, insomma, nuove assunzioni, eccetera, eccetera. Noi internamente abbiamo fatto degli accordi che vanno a tutela dei nuovi assunti. Praticamente noi abbiamo messo un limite per quanto riguarda il lavoro in somministrazione, cioè gli interinali. Abbiamo il 10% possibili di interinali rispetto alla popolazione totale, vale a dire che se noi siamo 450, all'interno della fabbrica non ci possono essere più di 45 interinali, a meno che non si vada nel periodo di ferie. Questo praticamente limita il numero degli interinali e è un vincolo per l'azienda alla stabilizzazione di questi interinali. In più, oltre a questo, abbiamo istituito una specie di bacino di utenza attraverso il quale l'azienda deve andare a pescare gli interinali che ha già preso una volta, ovvero vale a dire che se l'azienda ritiene un lavoratore valido, insomma, nel periodo in cui è stato a lavorare, deve richiamare questo lavoratore qui invece di prenderne uno nuovo. Questo perché a noi interessa mantenere gli stessi diritti per tutti all'interno dello stabilimento, e quando dico per tutti vale a dire anche provare anche a mantenerli su gli esterni, che è molto difficile perché hanno in alcuni casi anche un altro contratto. Però in diverse situazioni ci siamo riusciti a far mantenere i diritti che abbiamo acquisito noi come lavoratori CKN anche alle ditte esterne. In particolare mi riferisco alla non applicazione del Jobs Act. Noi abbiamo fatto un accordo all'inizio del 2015 per rispettare in toto l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ovvero senza le modifiche della legge Fornero, che già aveva dato una bella batosta nel 2012, e senza soprattutto le tutele crescenti di Renzi. Quindi quando si viene assunti in CKN Firenze, si viene assunti tutelati dal primo giorno dall'articolo 18 originario degli anni 70. E questo tipo di contrattazione, questo tipo di contrattazione interna sull'articolo 18 l'abbiamo fatto applicare anche alle ditte esterne, per esempio la mensa, per esempio i carrellisti e le pulizie, in modo tale da essere tutti quanti tutelati all'interno dello stabilimento. Sì, lo dicevo prima, no? Il lavoro si cerca di fare sia noi dell'RSU sia nei confronti dei nostri colleghi, proprio un discorso di crescita, no? Un discorso di presa di coscienza. Nell'ultimo anno abbiamo creato un coordinamento di lavoratori, lo chiamiamo collettivo di fabbrica, che coinvolge circa una cinquantina di lavoratori, con l'obiettivo appunto di non creare un distacco, perché quando si va a parlare di sindacato, quando si va a parlare di regole, di contratti, di leggi, eccetera, eccetera, nel lavoratore medio, nel lavoratore normale, c'è un po' di, come dire, di distacco, no? C'è una sorta di, chi non lo mastica tutti i giorni, una sorta di allontanamento, si crea quella distanza. E per non fare questo, si parlava prima del concetto di delega, no? Per non fare questo e quindi per eliminare anche quella delega che esiste nei luoghi di lavoro e che ha portato purtroppo al voto sì, tornando al discorso del contratto nazionale, no? Si cerca appunto di far crescere i nostri colleghi attraverso una discussione più frequente, più continua. Addirittura noi, quando abbiamo delle trattative complicate, prima di andare all'incontro con l'azienda, prima di andare a fare le contrattazioni, quando c'è dei temi importanti, noi convochiamo il coordinamento, e solitamente lavorando a turni è complicato, no? Perché se ci si trova la sera dopo cena, quelli lavorano di notte non possono venire, se ci si trova il pomeriggio, quelli lavorano il pomeriggio non ci possono venire, e quindi abbiamo trovato questa formula che i lavoratori, diciamo, oggi con i telefonini si fa tutto, si è fatto dei gruppettini telefonici, no? Di messaggistica con WhatsApp, e ci si convoca, ci si autoconvoca alla fine di ogni turno. Quindi i lavoratori di mattina si fermano un'ora o due ore a seconda di quanto c'è bisogno alla fine del turno, di ogni turno, noi delegati si rimane, si utilizza la saletta sindacale e insieme ai lavoratori si prova a elaborare la strategia che poi successivamente la RSU porta al tavolo con l'azienda. In questa maniera si pensa, si spera, il nostro obiettivo è questo. Ovviamente ci si rifà, non sono cose nuove, ci si rifà a quello che era il vero sindacato, quando il sindacato funzionava negli anni 70, quando c'erano consigli di fabbrica, no? Quando la discussione non era solo di 7 RSU su 450 lavoratori. In questo caso, rifacendoci a quel modello sindacale, si prova a coinvolgere i lavoratori, a farli crescere insieme a noi, perché siamo tutti lavoratori e non ci sentiamo sindacalisti, quindi facciamo vivere la discussione sugli accordi a un gruppo più esteso di lavoratori, e magari in futuro, grazie a questa formazione, si riesce a formare dei nuovi quadri dirigenti di fabbrica che un domani possano entrare a far parte della RSU. E no, questo sostanzialmente, insomma. Ricordiamo, siete sempre all'ascolto di Radio Wombat, potete ascoltare in streaming su wombat.noblogs.org, e in particolare state ascoltando Passaggi a Nord-Ovest, che potete ascoltare il lunedì alle 13.30 e poi in replica dal martedì al venerdì sempre alle 13.30. Vi ricordiamo anche, potete scaricare i podcast di Passaggio a Nord-Ovest, ma chiaramente anche di tutte le altre trasmissioni, andando sempre sul sito, che è sempre wombat.loblogs.org. Sulla colonna a sinistra, scorrete, ci sono tutte le varie trasmissioni, ci cliccate, entrate dentro e potete scaricare il podcast per sentirvelo meglio successivamente. Ricordiamo anche i nostri account, i nostri social. Per Twitter Radio Wombat Firenze, Facebook Radio-Wombat-Firenze. C'è anche la posta elettronica per suggerimenti, proposte, anche critiche chiaramente, posta wombat@insiberia.net. Sì, sì, insomma, il lavoro che facciamo è questo sostanzialmente, non è niente di particolare, però si cerca di fare il sindacato, questo è il nostro obiettivo. Si diceva prima, insomma, sul contratto nazionale, dopo che l'azienda è venuta appunto, come dicevi, con le slide a presentare il contratto nazionale, ovviamente è montata la rabbia dei lavoratori. Dopo il ciclo delle assemblee fatte dell'azienda, ci siamo riuniti in assemblea e abbiamo votato all'unanimità un ordine del giorno che praticamente diceva all'azienda, cara azienda, i punti più tremendi, più quelli si lamentava prima, la malattia, l'orario di lavoro, la parte salariale, eccetera, eccetera, non ci piacciono, e quindi diamo mandato all'RSU di fare una contrattazione acquisitiva, fermo restando purtroppo la validità del contratto nazionale, per appunto migliorare le parti più peggiorative. A sostegno di questa trattativa abbiamo dichiarato 10 ore di sciopero e lo sciopero di ogni forma di straordinario. È iniziata la trattativa, la trattativa è andata bene, praticamente sfortuna aziendale, questa nostra richiesta si è combaciata con partenze di nuove produzioni. Da poco Fiat ha lanciato l'Alfa Stelvio, che verrà prodotta a Cassino, e quindi le richieste produttive all'azienda sono schizzate alle stelle e si sono trovati con degli scioperi in atto e le richieste del cliente che stavano salendo, e quindi sono stati costretti a venire a patti con noi. Abbiamo portato a casa forse il primo accordo organico sul contratto nazionale che respinge, primo nel senso a livello italiano, che respinge appunto le parti peggiori, quindi la malattia, la parte economica della non riassorbibilità del salario, i premi di produzione variabili, l'orario di lavoro e tutte queste cose qua. No, basta pensare che il contratto nazionale non c'è ancora una copia definitiva del contratto nazionale, perché quando hanno firmato ci sono solo delle integrazioni al vecchio contratto. Praticamente non esiste tutt'oggi una copia definitiva del contratto nazionale, e noi già abbiamo posto un accordo che è migliorativo per quelle parti che ci interessavano. Quindi è stata una bella conquista, siamo orgogliosi di tutto il percorso che ci ha portato alla contrattazione interna acquisitiva di miglior favore. Chiaramente non finisce qui, perché noi quella battaglia sul contratto nazionale l'abbiamo purtroppo persa, l'abbiamo come lavoratori metalmeccanici d'Italia, e purtroppo quella ce la siamo persa. Abbiamo lottato tutto il 2016 contro questo rinnovo, però alla fine, essendo stato votato dai lavoratori, molto probabilmente c'è da fare un grosso lavoro di massa, cosa che un sindacato serio avrebbe il dovere di fare, e per questo infatti noi invitiamo a fare altrettanto, a comportarsi nelle stesse situazioni in cui ci siamo comportati noi per respingere le brutture di questo, le nefandezze di questo contratto nazionale. Invitiamo anche tutti i lavoratori metalmeccanici di altre fabbriche a fare altrettanto, in modo che si capisca di più a livello nazionale che al prossimo rinnovo contrattuale dovranno partire da posizioni differenti. Questa è la cosa importante. Abbiamo parlato fino ad ora sostanzialmente delle iniziative della contrarietà al contratto collettivo nazionale, delle iniziative per un accordo migliore all'interno della fabbrica, della CKN, ma come sono le condizioni all'interno della fabbrica, i turni, eventuali lavori pericolosi, com'è da questo punto di vista la situazione? Ma allora, lì da noi, lo diceva prima Massimo, noi si lavora prettamente per Fiat, no? Ci sa una parte di azienda che produce, insomma, fa ferro, fa trucciolo, come si dice noi metalmeccanici. E quindi lavorazione in sé per sé, cioè si lavora al ferro, si costruisce semiassi e giunti. C'è una grossa parte, sempre più in espansione, che è l'area di assemblaggio semiasti, che è la parte finale, no? Dello stabilimento, dove poi si spedisce o al cliente Fiat o alle consociate altre CKN, che presenta alcune problematiche a livello di salute e di sicurezza, perché ovviamente si va ad assemblare semiassi in, non c'è una catena di montaggio vera e propria, però ci sono delle, vengono chiamate così, celle d'assemblaggio, sembra appunto di essere in galera, già il nome è un po' non è bellissimo, dove ci lavorano, da seconda delle celle, 3 o 4 lavoratori, dove negli anni abbiamo registrato delle problematiche a livello fisico, in particolare sui tendini, sulla schiena, ernie, insomma problematiche muscoloscheletriche, come si dice in gergo. E anche lì, come dire, siamo un po' all'avanguardia come a livello di battaglia e di scontro. E lì devo dire, devo spezzare la lancia nei confronti della nostra organizzazione di maggioranza, di cui io faccio parte, anche se sono di un'area di minoranza, della FIOM, sto parlando della FIOM CGL, perché in questo specifico ambito della salute e sicurezza ci sta dando una grossa mano, affiancandoci un ergonomo che non è ovviamente un sindacalista, è un professionista che collabora con la FIOM a livello nazionale, un professionista a livello internazionale, insomma ha avuto modo di lavorare anche BMW insomma all'Audi, insomma ha girato vari stabilimenti a livello europeo, anche Fiat ovviamente, sempre a giro Melfi, Pomigliano, Cassino, eccetera eccetera, e grazie a lui e grazie alla formazione che abbiamo ricevuto riusciamo a tenere testa all'azienda. Abbiamo nelle aree di assemblaggio abbiamo aumentato le pause, quindi un lavoratore che lavora 8 ore in azienda da noi praticamente ogni ora ha 10 minuti di pausa, oltre alla pausa mensa di mezz'ora e oltre alla pausa del tempo tuta che abbiamo a fine turno. Quindi ogni ora sostanzialmente il lavoratore lavora 50 minuti invece che 60. Abbiamo fatto delle grosse migliorie sulle celle d'assemblaggio, inserendo della robotizzazione sulle parti più pesanti, semiassi quelli che vengono montati sotto il Ducato arrivano a pesare anche 17-18 kg quando sono completi, insomma movimentarli come veniva fatto una volta manualmente si può immaginare cosa succede insomma alla schiena e agli arti farlo ripetutamente per anni e anni. Abbiamo agito anche su la strumentistica, quindi le pedane in sollevamento, insomma stiamo cercando con tanta difficoltà, perché ovviamente ci si scontra con un'azienda, con una multinazionale che davanti, cioè nella testa c'è il profitto, e nonostante, come dire, le grandi campagne pubblicitarie sulla salute e sicurezza, alla fine la salute e la sicurezza dei lavoratori si scontrano contro la logica di profitto dell'azienda. Purtroppo anche lì il lavoro grosso è sì lottare contro l'azienda, ma è anche, lo dicevo prima, cercare di formare i nostri colleghi, perché sia magari quelli che rincorrono il posto fisso, ma anche quelli che stupidamente provano a rincorrere un posto più agiato, una carriera o qualcosa di genere, li porta ad assumere una mentalità non di classe. Cerco di spiegarla così, insomma, per non usare parole più pesanti. Sì, no, non si usano più questi termini, ma in realtà esistono, insomma. E quindi insomma la battaglia è pesante, una battaglia contro ovviamente il potere, il padrone, i profitti eccetera eccetera, ma è anche una battaglia ideologica e ci si cerca appunto di far assumere ai nostri colleghi, perché di schiena ce n'è una, di bracci ce n'è due, i tendini sono quelli lì, se te li lesioni poi dopo te la porti avanti per tutta la vita, e ci siamo dentro anche ora, anche oggi abbiamo discusso di queste cose qua, perché stiamo cercando di arrivare ad ulteriori accordi che mirano a migliorare ancora quelle postazioni di lavoro lì, perché lo dicevo prima, insomma l'età pensionabile l'hanno portata a 70 anni e quindi in fabbrica bisognerà starci tanto, se ci faranno la grazia di rimanere aperti, perché quando si lavora una multinazionale non si sa mai quanto si può durare. Non le 20 anni che si lavora lì dentro, la GKN dal 90, dal 94-95, quindi sono più di 20 anni che è sul territorio di Campi Bisenzio e si spera rimanga a lungo, però bisogna pensare anche alla nostra salute. Mandiamo un altro pezzo, sempre i Redskins, che ci sembrava una colonna sonora appropriata, sempre dalle stesse LP. Questo pezzo si chiama Go Get Organize, organizzati. Straight into the I Redskins con Get Organized, organizzati. Riprendiamo l'intervista e chiediamo appunto agli ospiti, a Massimo, a Matteo. La CKN è a campo, nella piana, e quindi in una situazione anche particolare, sia da un punto di vista ambientale, urbanistico, sia da un punto di vista anche sociale, ecco. E quindi come si colloca con la fabbrica rispetto al territorio, rispetto agli abitanti? Ecco, noi anche in fabbrica, essendo lavoratori della piana e abitanti della piana, ci interessano appunto le questioni della piana, e alcune di queste di cui si parla spesso oggigiorno sono la nascita del nuovo del progetto che c'è riguardo all'inceneritore che vogliono fare a Case Passerini, e l'ampliamento dell'aeroporto con la nuova pista che vogliono fare parallela all'autostrada. Noi abbiamo le idee abbastanza chiare su questo, anche i lavoratori CKN sono sensibili a questo problema, pertanto in fabbrica abbiamo fatto un pochino di propaganda, di pubblicità alle lotte che ci sono nei vari comitati che lottano contro queste due mostruosità, e abbiamo portato diverso materiale che spiega innanzitutto che cosa vogliono fare, perché molti non sanno, senza essere informati, capito, non possano neanche rendersi conto di che cosa si sta parlando. Per cui anche in tempi recenti abbiamo portato tutto il materiale informativo su quanto, cioè, al di là che l'inceneritore fa male, però si spiega anche quali sono le alternative che esistono di già, come ci si comporta dal punto di vista dei rifiuti, cercare di andare verso un'economia che ne produca sempre di meno, e appunto spiegando anche l'andamento di questi progetti che stanno sulla piana, e cercare di fare partecipare con la mobilitazione alle iniziative che questi comitati propongono per fermare queste due mostruosità. Finisce qui l'intervista Work in Progress, diciamo, perché la nostra intenzione di, appunto, passaggio a nord-ovest, di seguire quello che succede veramente nella piana fiorentina, e quindi quello che succede anche alla CKN, e quindi li rinviteremo, i lavoratori della CKN, per aggiornamenti, per riesporre la loro situazione, insomma sostanzialmente per seguire comunque la vicenda, perché merita di essere seguita. Vi ringraziamo e salutiamo gli ascoltatori, ricordiamo passaggio a nord-ovest su Radio Wombat, wombat.noblogs.org. Ciao ciao. Grazie a tutti. Ciao. Ciao, grazie a tutti.